It was 83 that year, I knew upon my face I was in the wrong place. To my father it's a shame to please just again. I want to cry but I smile, I want to escape but I stay, telling myself that I'll be a star. The sky of music just needs me. And then I left the room, said I'll be coming soon. I want to dream outside with freedom in my mind. So clear, it was 83 that year, I knew upon my face I was in the wrong place. To my father it's a shame to please just again. Never lose your beliefs, in life you need a dream. I get it for my soul, the music is my goal. Never lose your beliefs, in life you need a dream. I get it for my soul, the music is my goal. Quarta e ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco degli On Air, Natural Prestige. Come si chiamava questa canzone? On Air è dedicata a mio padre e le continue discussioni che avevamo a causa della musica, ma alla fine abbiamo fatto pace. E oggi gliela posso dedicare comunque. Bene, dai. Quali ora i progetti per il futuro prossimo della band? Ma l'ho detto prima, si sta già lavorando in realtà, ci sono già abbastanza idee per mettere in piedi un nuovo lavoro, perciò non si sta già lavorando a quello. E obiettivo un live curato e nei dettagli, fatto anche bene. Più di uno, insomma, ecco. Sì, no, non un live inteso in una serata, uno spettacolo live, diciamo. Che magari si parlava anche di ampliare la formazione nel live, cosa mai vediamo adesso, insomma. Però si sta lavorando a quello. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far sentire? Running Away. leaving behind my old boy life. I need to be free. I'm chasing the light, it's so far and bright to find a new meaning, that's why I'm in living. I need to be free. Il tempo come sempre vola, noi siamo quasi alla fine di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email gianluc76m@yahoo.it, ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Grazie agli Onere per la partecipazione. A questo punto di nuovo a voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e nel caso se ci fossero dei live in programmazione. Il nostro sito è www.oneira.org, su Facebook invece The Oneira. Il CD si può acquistare in Italia dalla GT Music oppure distribuzione digitale iTunes, Amazon o direttamente dalla nostra casa discografica, la Musea Records. Tutto qui. Brano per chiudere questa puntata? Panorama. Gianluca e gli Onere vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti veronesi Holborn che ci presenteranno il CD New Rock Generation. Ciao!